Buonasera, sono Mario Sabatino, benvenuti a Diritto Istruzioni per l'Uso. Oggi è il 17 di marzo del 2011, 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Vi parlerò di un'interessante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di gratuito patrocinio. La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che il beneficio del gratuito patrocinio deve essere riconosciuto anche alle società ed alle persone giuridiche, se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale e l'accesso alla giustizia. La seconda sezione della Corte dichiara infatti che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l'aiuto concesso in sua applicazione può comprendere segnatamente l'esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziarie e dell'assistenza legale. Spetta al riguardo al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscono una limitazione del diritto di accesso alla giustizia, che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In tale accertamento, il giudice nazionale può tener conto dell'oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest'ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili, nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità, il giudice nazionale può tener presente altresì l'entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell'ostacolo all'accesso alla giustizia che esse potrebbero rappresentare, se tale ostacolo sia sormontabile o insormontabile. Quanto più specificatamente alla persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione in particolare la forma e lo scopo di lucro o meno della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità per questi ultimi di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio. Vedremo in futuro quali sono gli effetti di questa sentenza in Italia. In termini più generali, per ottenere l'ammissione a gratuito patrocinio qui in Italia è necessario che il reddito imponibile della persona fisica risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore ad euro 10.628,16, così come stabilito dal decreto 20 gennaio del 2009 che ha adeguato questo limite, aumentandolo di poco. Si considera reddito dell'istante la somma dei redditi dei componenti conviventi della famiglia, mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. La domanda di ammissione va compilata e sottoscritta e presentata al Consiglio dell'Ordine competente. L'istanza è redatta in carta semplice e a pena di inammissibilità deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio con l'indicazione del processo cui si riferisce e se esso sia già pendente, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti di reddito, perché questo beneficio, qualora dovessero venire a mancare i requisiti di reddito, cioè qualora la persona beneficiata dal gratuito patrocinio dovesse percepire un reddito superiore al limite, è chiaro che andrebbe a perdere il beneficio. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Il difensore viene nominato dalla persona ammessa al patrocinio e deve essere scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Costi dei giudizi. Il cittadino ammesso a godere del patrocinio a spese dello Stato non deve affrontare alcuna spesa, tassa, imposta o versare compensi professionali a proprio difensore o consulente tecnico. Infatti tutte le spese di costi difensivi saranno anticipati dallo Stato. Per ulteriori informazioni e per la modulistica vi invito a visitare il sito www.studiosabatino.eu, dove ho creato un'apposita sezione denominata appunto patrocinio gratuito, dove troverete tutte le informazioni necessarie alla presentazione della richiesta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Buonasera.